si parlerà di due cose principalmente che hanno ovviamente un argomento in comune assolutamente molto forte che è quello occupazionale. Quindi ci sarà una prima parte legata al discorso del CCNL, delle cooperative sociali, contratto nazionale scaduto ormai nel 2012, se ricordo molto bene, che è anche l'anno in cui è stato rinnovato, ed è un contratto che in qualche modo dovrebbe riguardare più di 300.000 lavoratori in Italia. Non è una fetta piccola, ecco, ed è un contratto nazionale che va assolutamente aggiornato rispetto a quelle che sono le nuove caratteristiche sociali, le nuove anche richieste che vengono fatte al mondo dell'educazione, agli operatori sociali e anche alle condizioni di vita attuali, ecco. La seconda parte dell'assemblea sarà dedicata appunto, sarà più specifica sul tema dell'accoglienza, si parlerà delle ricadute che a livello, principalmente a livello lavorativo, avrà su chi appunto si occupa di accoglienza, ma ovviamente sappiamo molto bene che questo riguarda poi tra l'altro anche gli operatori sociali, le condizioni di lavoro dell'operatore vuol dire, è strettamente legata alla qualità del servizio erogato ed è quindi strettamente legata al rispetto dei diritti di coloro che usufruiscono dei servizi e quindi potenzialmente di chiunque noi. Questo è un tema molto ampio. Parlare delle condizioni di benessere occupazionale di chi lavora nei servizi alla persona vuol dire parlare del rispetto dei diritti dell'intero tessuto sociale. Questi due temi che affrontate, come già dicevamo nel titolo, sono accomunati da una precarietà che coinvolge entrambi, no? Certamente, guarda, noi abbiamo scelto di fare un'assemblea in questo modo, insieme agli operatori dell'accoglienza, proprio perché crediamo che ci sia un tema occupazionale molto forte. Inutile stare a parlare del tema occupazionale legato al contratto nazionale, perché è lampante, ma ovviamente rispetto agli operatori che si occupano appunto di SPRAR, di migranti, con la nuova legge Salvini che innanzitutto le cose più drammatiche che fa è andare a ledere tutta una serie di diritti di coloro che entrano in questo paese e che dovrebbero essere tutelati, ma anche diritti di chi ha già la cittadinanza, ma è straniero, ma oltre a questo distrugge l'intero sistema di accoglienza che è stato finora. Il rischio assolutamente palese e forte è che tutti coloro che lavorano in questo sistema si possano trovare da un giorno all'altro senza né un lavoro, ma anche con le, il punto per me è questo, che anche con l'enorme difficoltà di poter essere riposizionati e ricollocati, visto che il settore dell'accoglienza è talmente nuovo, visto che a nessuno fino adesso, neanche lontanamente, è interessato strutturare questo sistema d'accoglienza anche da un punto di vista professionale. Il grosso problema è che smantellare tutto questo processo, tutto questo sistema in piedi vuol dire avere un numero di operatori che non saranno più riposizionabili, ricollocabili. Ci sono cifre un po' ballerine su questo tema, c'è chi parla di 15-16 mila persone, chi addirittura di 50 mila, quindi comunque una fetta consistente. Anche 15.000 non sarebbero poche, a mio avviso, nel Certo, senso, no, certo. sarebbero tante. Quindi questo è il tema che accomuna l'assemblea e le due parti, ecco. Ovviamente si andrà anche molto più nei contenuti che saranno non soltanto legati al mondo, al lavoro di per sé, ma anche appunto legati a tutto il sistema di diritti e, come dicevo all'inizio, della società intera, perché poi potenzialmente siamo tutti, anzi non potenzialmente, siamo tutti, chiunque è utente dei servizi alla persona e dei servizi sociali, perché faccia parte di una società. Entriamo un po' nel merito dei vari punti, cominciamo dal contratto nazionale, perché voi non siete stati a guardare e in Ah no. particolare c'è la Rete Nazionale Operatori Sociali, RENOS, che ha elaborato una piattaforma. Quali sono le principali cose che chiedete? È una rete nazionale formata da varie realtà, come noi, operano sui territori singoli, ma che hanno deciso ormai da 4 anni di unirsi e provare a fare un ragionamento socio-politico di respiro anche più nazionale. E devo dire che dei risultati e delle soddisfazioni ce ne stiamo portando a casa. Il documento che abbiamo elaborato rispetto al CCNL è un documento che ha richiesto un ragionamento lungo, devo dire, un po' di tempo che ci pensiamo, un po' di tempo che ci confrontiamo, non è neanche stato troppo facile, ma siamo riusciti a fare alla fine un riassunto di tutto. I punti fondamentali riguardano senz'altro tutto ciò che può avere a che fare con nessuno salario, perché possiamo tranquillamente dircelo senza la vergogna di nessuno e senza scandalizzare nessuno che il nostro salario è ridicolo. Non saprei quale altra parola utilizzare. Abbiamo uno dei contratti nazionali generalmente con un livello salariale più basso in assoluto, questo è un dato di fatto. Quindi sicuramente ci focalizziamo su quello, anche proprio in vista degli ultimi cambiamenti legislativi che sono stati in questi anni. L'ultima legge, quella conosciuta come legge Iori, in vigore dall'1 gennaio 2018, riconosce un curriculum formativo per gli operatori sociali, per gli educatori e pedagogisti, ben strutturato e specifico, che passa attraverso una laurea, che va bene, siamo d'accordo, questo vuol dire creare una categoria professionale che in realtà non esiste. Detto ciò, noi pensiamo che a tutto questo potrebbero seguire anche tutta una serie di riconoscimenti economici e di dignità professionale, prima di tutto appunto la possibilità di pareggiare il salario a quella che può essere, diciamo, la media dei laureati in Italia, che è senz'altro più alta del nostro stipendio. Legato a questo c'è tutta una serie di richieste legate alla dignità professionale, quindi si chiede maggior tutela ai diritti per le maternità, un riconoscimento di retribuzione al 100% per esempio delle maternità, ci vengono chieste riconoscimenti per quanto riguarda il lavoro usurante, il nostro lavoro così come tutti gli altri lavori di relazione è a rischio sindrome burnout. Sindrome riconosciuta, non ce lo stiamo inventando noi, c'è fior fior di letteratura che ne parla. Questo è un rischio professionale molto alto e anche molto pericoloso, perché il sindrome del burnout non è senz'altro sottovalutare, si sta molto male. Chiediamo un'eliminazione della prassi delle notti passive, un'eliminazione nel senso che vorremmo che fosse scritto nero su bianco sul contratto che le notti passive non si possono fare. C'è una prassi molto molto utilizzata in tantissime realtà, mi viene a dire forse anche in tutte le realtà ormai residenziali, in cui l'operatore, per quanto riguarda i turni notturni, diciamo tendenzialmente da mezzanotte alle 8, non viene pagato come operatore in servizio ufficialmente, ma con la scusa del tanto è notte, ti puoi chiudere in camera e dormi, previa la responsabilità di quello che succede poi in struttura, il lavoratore viene pagato con indennizzi forfettari che si aggirano dai 15 ai 25 euro. Quindi per 8 ore in struttura vieni pagato 15-20. Sì, se uno volesse tranquillamente dormire lo farebbe nel suo letto, non si vede perché dovrebbe dormire in una struttura. Senza dubbio, oltre al fatto che io in struttura ci ho lavorato per anni, nel senso, per fortuna soltanto in una struttura venivo pagato con le notti passive, negli altri ho avuto la fortuna anni fa di lavorarci prima che questa prassi diventasse ufficiosa, diciamo. In struttura sei comunque responsabile di quello che accade, e quando sei in una struttura per minori o sei in una struttura di qualsiasi altro tipo, hai questa responsabilità, insomma, pesa sulla qualità del tempo, e soprattutto sei in servizio, stai lavorando, non sei a casa tua, devi essere pagato per il fatto che non è tempo libero, è tempo lavorativo. Quindi noi vorremmo assolutamente che questa prassi venisse eliminata legislativamente. Torno un attimo all'ex la legge Iori, no? Tu dicevi prima, certo, bene che ha dato un riconoscimento a una figura, però in tutti i casi in cui arrivano riconoscimenti che prima non c'erano può creare anche dei problemi, li crea chi per anni e anni, no, ha fatto l'educatore senza avere un titolo, perché prima magari non era neanche immaginato, e c'è tutta la questione di chi debba pagare, diciamo, i corsi formativi per mettersi in pari. Questa questione è stata risolta? La legge questa questione la risolve in maniera molto molto semplice, scrivendo che i costi sono ad onere del lavoratore che si iscrive al percorso formativo delle norme transitorie. Quindi la legge in realtà risolve molto velocemente questo punto, scaricando sul singolo lavoratore il pagamento delle tasse universitarie che tendenzialmente in Italia per i corsi che sono stati attivati vanno dai 1.400 ai 1.800. Ricordiamo che uno stipendio medio, generalizzo, di un operatore riconosciuto al livello a cui deve essere riconosciuto va sui 1.100, forse arriva a 1.200, forse, ecco, sta di fatto che la tassa universitaria richiesta è più alta di uno stipendio di un operatore. Senza considerare che vorrei veramente andare a contare quanti operatori e quanti educatori hanno contratti a 38 ore, pochissimi, quindi la situazione diventa ancora più drammatica. Certo. Ci sono stati delle mobilitazioni, dei movimenti, c'è stato un accordo di Lega Coop con Unipegaso, un'università online riconosciuta, che ha calato di molto il prezzo, anche 600 euro, nel caso in cui sia una dichiarazione che la cooperativa per cui si lavora fa parte di Lega Coop. Resta un problema di onere economico importante. Io credo che alla base di questa legge ci sia una volontà che noi apprezziamo, che è quella di fare i primi passi verso il riconoscimento, la costruzione di una categoria professionale che non è mai esistita, non c'è mai stata un riconoscimento di questo tipo. In altri tempi mi viene da dire che avremmo dovuto dire la creazione di una coscienza, di una categoria di classe, però sai, se lo diciamo adesso di questi tempi può essere pericoloso. Non è più di moda. Esattamente, quindi utilizziamo categoria professionale. A questo deve per forza seguire qualcos'altro, non si può pensare di creare una categoria professionale soltanto attraverso un curriculum universitario, altrimenti il dubbio è che rischi di essere una mossa lobbistica anche questa. Lobbistica intendo a favore delle università. Ci stiamo spingendo proprio perché avvengano i passi successivi. Passi successivi che dovrebbero cominciare a essere riconosciuti all'interno del CCNL, il Comitato Nazionale, e soprattutto ci sono alcuni punti, come stavamo dicendo prima, all'interno delle norme transitorie, quindi quelle norme che riguardano tutti coloro che fanno questo lavoro da anni e che hanno altre lauree, ma che sono stati fino a dicembre 2017 legittimati a fare questo lavoro. Queste norme transitorie, ecco, ci fanno pure alcuni interrogativi, alcuni dubbi. Dalle condizioni di lavoro di operatori sociali dipende poi anche la qualità del servizio e quindi anche le ripercussioni, no, sull'utenza. Ecco, in questo senso, insomma, già il nome di Educatori Uniti contro i Tagli si dice qual è stata la direzione, però che conseguenze possiamo riscontrare? Che c'è stato un peggioramento negli ultimi anni? Cosa sta succedendo? Io credo che dal 2008 il taglio della spesa sociale dell'Italia rispetto ai servizi alla persona sia stato nell'ordine dell'80%, mi viene da dire, cosa di questo tipo. Adesso, ripeto, spero di non sparare numeri a caso, però comunque è stato un taglio di proporzioni mastodontiche, senza considerare il fatto che ci sono le pensioni che, per quanto riguarda la spesa sociale, contribuiscono ad aumentare i numeri e a far sembrare il tutto meno drammatico, perché l'erogazione delle pensioni pareggia un po' quello che è tutta una serie di diritti economici delle persone, poi tra 20 anni vedremo. Quindi comunque il taglio rispetto alla spesa pubblica per le politiche sociali è stata una spesa altissima. Possiamo tranquillamente dirci che senza un livello economico a supportare l'erogazione dei servizi ne viene meno anche la qualità, vengono meno i servizi a livello numerico, ma viene meno anche la possibilità di tutta una serie di riconoscimenti di diritti del lavoro, come appunto quelli che possono essere le ore di programmazione, le supervisioni e il supporto all'operatore in genere, o anche la possibilità di essere due operatori su un servizio invece che far essere sempre l'operatore in solitudine. Questo è qualcosa che, insieme a tanto altro, danneggia la qualità del lavoro. La soddisfazione di chi lavora con le persone, questo riguarda noi, riguarda la scuola, riguarda la sanità, la soddisfazione e il benessere di chi lavora con le persone è ovviamente qualcosa che si trasmette alle persone con cui lavori. La possibilità di essere efficace, efficiente e presente al servizio in cui sei vuol dire riuscire in qualche modo a svolgere il tuo compito in maniera adeguata e positiva. Il nostro compito, a mio avviso, principalmente è duplice. Il primo è quello di provare a dare voce ai diritti di coloro che non riescono ad avere voce per difenderli da soli. Parlo degli emarginati, dei più deboli, degli immigrati, dei portatori, dei disabili e tutto il resto, dei bambini, degli adolescenti. L'altro compito è un compito, secondo me, squisitamente politico. Noi spesso, operatori sociali, dimentichiamo che abbiamo un compito politico, ma non dobbiamo spaventarci da questo, ce l'abbiamo e assolutamente rivendichiamolo. In qualche modo di riuscire a presentare all'esterno tutto un modello, se vuoi anche utopico, di società del diritto in cui la persona è al centro, per cui noi quotidianamente lavoriamo.